Hai detto di essere salito sull'Arcadia in cerca di libertà. Ebbene, se è vero, devi combattere contro ciò che ti lega. Bentornati sull'Arcadia con Radio Big World. Quest'intro oggi, combattere contro ciò che ci lega. Cosa ci lega? Possiamo trovare in tanti film, in tanti telefilm, cartoni, possiamo trovare tanti indizi, tante cose che ci fanno chiedere ma perché ce l'hanno infilato quel pezzettino, perché c'è quella frase, se anche il significato generale del film. Possiamo prendere per esempio anche Matrix, e secondo me dicono delle cose che riguardano la vita attuale, la nostra vita, il mondo, la società come è oggi. Quindi oggi questa puntata è un po' così. Vi faccio sentire qualche pezzo qua e là, e questo è ripreso da Matrix. Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. Quale verità? Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. Come Matrix, visto sotto questo punto di vista della menzogna, come il fatto che ci mentono riguardo alla forma del pianeta e quello che ci fanno vedere è tutto finto, questi discorsi ti danno da pensare con chi stanno parlando. Stanno parlando, stanno davvero recitando o stanno magari è un messaggio che vuole dare il regista. Sicuramente è un'interpretazione personale o comunque fantastica di qualcosa, ma come sappiamo in tutte le cose c'è una base di vero. Anche sulla storia più fantastica e fantasiosa c'è una base di realtà, come possono essere i sentimenti che prova il personaggio principale o quello che vede il personaggio principale, come infatti in Matrix Neo, che è il protagonista, poi si sveglia, si rende conto di come è davvero, che è tutta una menzogna, e poi combatte per liberare l'umanità da questo sogno. Però non stiamo a raccontare tutti i film, e qui passo a un altro pezzettino, questa volta andato in televisione, ed è Guzzanti, in un programma comico, satirico, in cui se ne esce con questa cosa. Sentiamo. Buonasera, come stai? Bene. Sta bene? Sì, ma sono la vera, sì. È piatta. Come la terra è piatta? La terra è piatta! Non è vero, Gradona! Ma l'ho fatto per te! perché io Stalo mi sono messo d'accordo con le compagnie aeree, ti fanno credere che la terra è rotonda, così il biglietto a Roma a New York ne costa 2,5 milioni, perché ti ci vogliono 25 ore. O sai quanto ci vuole Roma a New York? Quanto ci vuole? 25 minuti! Ma come? Lei arriva dopo mezz'ora e poi fa per 19 ore e mezza ti gira attorno, e ti dice se stiamo andando a New York. Ma non è vero niente! Ma che dice? Ma è pieno di foto dallo spazio che fanno della terra sferica, tonda, ma che è un fotomontaggio! Che se è fatto pure marzo dal bordo bianco. Anche qui vediamo che in televisione ogni tanto ci tirano la frecciatina, perché dice la terra è piatta, tutti ci ridono perché la prendono come una cosa ridicola, però quando gli viene detto ma ci sono le immagini da satelliti e lui risponde no, è tutto finto, è tutto fatto ai computer. Anche lì la gente ride, ma perché ride? Perché nessuno va a controllare, perché nessuno va a controllare? Perché ormai si è impiantato, siamo cresciuti con questa idea, questa realtà che vediamo, in cui crediamo in qualcosa che non è vero, perché le foto della NASA le possiamo benissimo... possiamo andare sul sito della NASA, scaricare le foto, aprirle con Photoshop, anzi vi invito a farlo, dove si vede, risulta che sono state, è tutto un copia e incolla, sono state manomesse, che non è una foto vera. Quindi perché continuiamo a riderci sopra invece che a cercare e scavare, inseguire il bianconiglio? È una cosa che viene ripetuta spesso, l'inseguire un qualcosa, un'idea, una curiosità, e poi alla fine scoprire di essere da tutt'altra parte, in un altro mondo, totalmente con un'altra realtà. E qui vi riporto un altro pezzo di Matrix. Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. È la tua ultima occasione. Se rinunci, non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo, niente di più. E anche qui c'è questo punto della pillola blu e la pillola rossa, che possiamo ritrovare anche in tanti video musicali. Faccio un esempio, nel video di Katy Perry, dove c'è Into the Rhythm, che bevono quel liquido blu, che vengono come impossessati, o comunque vendono l'anima. Comunque nel video si nota che sono tutti come zombie, praticamente, e questo è solo un esempio. Mentre in altri video si vede che o hanno drink rossi, o comunque c'è il rosso è predominante, e se andiamo a sentire quello che dice la canzone possiamo fare un collegamento con questa cosa. Viene da chiedersi, no? È un caso? È solo un caso? Oppure sono segnali che uno deve vedere per vedere per credere, come si dice, come ha detto Morpheus a Neo. Nessuno ti può spiegare cosa è Matrix, nessuno ti può, io potrei dire qualsiasi cosa, ma perché mi dovreste credere? Dovete vedere con i vostri occhi, è quello che gli dice lui. Devi vedere con i tuoi occhi, nessuno ti può spiegare cos'è. Quindi o continuiamo a credere a quello che abbiamo sempre creduto, o